Data Brecht, meaça, matai la su. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so. Buongiorno Deborah. Buongiorno. No, quindi sono... sa che non ne basta il bonus vacanza per andare in questi posti. Ma sono un non po' c'è perplesso. Bonus vacanza che tenga. Abbiamo questa deriva, diciamo così, ecclesiastica. Nel senso, ieri abbiamo cominciato con una notizia sul bonus facciate per le chiese. Oggi cominciamo con sì. Celentano che canta Pregherò. Perché di grazia, appunto, di grazia questa cosa della perché, di questa caro scelta. Mio... Allora, sai che, come dire, se possiamo evitare di spostarci quanto più possibile è meglio, perché evitiamo un rischio contagio. E sono fermi pure i pellegrinaggi. Pensa che Lourdes avrebbe chiesto aiuto addirittura al governo di Parigi per evitare il crack. I pellegrini sono spariti quasi del tutto. Dei 137 alberghi in città, solo 4 hanno riaperto i battenti, e Lourdes, di fronte al buco d'entrate di 340 milioni atteso quest'anno, chiede aiuto appunto a Parigi per salvare i conti della città dallo tsunami della pandemia, che quindi abbiamo proprio capito non risparmia nessuno, non abbiamo più nessun santo a cui votarci qua. I disastri si sono un po' spalmati ovunque. C'è da dire che questo pezzo lo scrive stamattina anche un amico di una testata concorrente, ma Ettore Livini di Repubblica, appunto, che fa un'inchiesta proprio anche sulle città dei pellegrinaggi che soffrono parecchio di questa situazione, caro Mauro. Anche il turismo religioso effettivamente rimane colpito, e anche per noi ovviamente è una voce molto importante, basta pensare al turismo religioso in Roma, quindi immaginiamo che lo stesso disagio sia quello che viene sofferto dagli albergatori di Roma e di altre città note per essere mete appunto di pellegrinaggi. Di che parliamo oggi, Deborah? Perché credo che dobbiamo passare un po' dal sacro al profano adesso per annunciare il tema della giornata. Allora, nel caso in cui tu abbia intenzione di fare un acquisto impegnativo in un negozio che superi la soglia dei 2000 euro, sappi che se ti presenti con il mazzettone di banconote, l'esercente dovrà respingere al mittente questo pagamento, dovrai estrarre o il bancomat o un assegno o fare un bonifico oppure una carta di credito, perché come si sa dal 1 luglio è cambiata la soglia per l'utilizzo del contante a 2000 euro, anzi a 1999 rotti, come dice sempre Nicola Forte. Quindi sta cambiando chiaramente ancora una volta la nostra abitudine di pagamento, e ci faremo raccontare tutti i dettagli di questa reintroduzione appunto di questa ulteriore nuova soglia. In realtà siamo anche abbastanza abituati a questi continui cambiamenti sulle soglie dell'utilizzo del contante, ma oggi dobbiamo di nuovo rifare un po' di ABC. E lo faremo anche parlando del credito d'imposta che sempre da luglio è scattato per le commissioni che gli esercenti che installano il POS devono pagare, ma su queste commissioni possono aver diritto a un credito d'imposta. Ci spiegherà tutto sempre appunto Nicola Forte. Se avete domande sul punto, noi vi ricordiamo i nostri numeri, sempre quelli, ma fa bene anche per chi non ha voglia di prendere nota di volta in volta. 800240024 è il numero verde. Se volete mandarci SMS o messaggi WhatsApp anche vocali, 349 238 6666. Di là dal vetro vedo prontissimo il paziente Peter Bescapè, dietro di lui il valente Luca Cremonese e il sempre presente Marco Lombardo. Lo so che c'è anche se non è presente fisicamente, ho fatto anche una rima involontaria, chiedo scusa. Abbiamo un giornaletto del risparmio, un giornalino del risparmio? Allora, sì, anche bello interessante. E allora vediamo se Peter ha voglia di metterci una sigla, qualcosa, uno stacchetto. Meazza con Rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. Partiamo con le assicurazioni degli italiani, Mauro, che cosa ne dici? Perché non siamo fortissimi sul punto, siamo debolucci anche su quello. Proprio l'educazione Infatti. Finanziaria, previdenziale e assicurativa non è la nostra specialità, diciamolo apertamente, ma ne è sapremo di più tra un poco, vero Deborah? Esattamente, allora intanto che gli italiani siano un popolo di largamente sottoassicurati è noto, pagano solo quelle obbligatorie e peraltro abbiamo visto anche in questi mesi di lockdown che non pagavano tanto volentieri neanche quelle, perché ti ricordi quanta discussione abbiamo fatto anche con tutti quegli ascoltatori che ci hanno chiamato sollecitando le compagnie di assicurazione a sospendere magari proprio l'RC auto, visto che le auto erano tutte ferme proprio per queste misure di contenimento, come è noto, determinate dal Covid. Tutto questo per arrivare a dire che ci si chiede se in Italia i cittadini siano consapevoli dei rischi a cui sono esposti e se conoscano i loro bisogni di copertura. Qual è il grado poi di comprensione delle polizze offerte dal mercato? Tutto questo per arrivare a raccontare ai nostri amici che ci seguono che ha preso il via da ieri, e noi ne parleremo anche venerdì a Due di Denari, la prima indagine nazionale per misurare il livello di conoscenza assicurativa degli italiani, anche se io direi di più che gli italiani sono consapevoli dei bisogni assicurativi ma si fidano un po' poco delle assicurazioni, ma poi lo scopriremo fra qualche tempo se i risultati di questa indagine confermeranno anche questa nostra percezione. La ricerca è commissionata dall'IVAS, l'autorità di controllo sul mercato assicurativo, sarà condotta in collaborazione con l'Università di Milano Bicocca e degli istituti di ricerca BVA ed OXA. Quindi i professionisti di questi istituti intervisteranno un campione di cittadini selezionato in modo casuale dalle liste elettorali, quindi potrebbe capitare anche a voi o anche a noi. I risultati dell'indagine poi saranno utilizzati dall'IVAS per cercare di capire qual è il livello di percezione dei bisogni assicurativi da parte del cittadino e di conseguenza indirizzare anche al meglio le azioni a sua tutela e le iniziative di sviluppo della cultura assicurativa. Chiaramente tutte le informazioni le troveremo sul sito di IVAS, www.ivas.it. E sicuramente c'è un aumento di richieste per un altro bisogno, che è quello dell'ISEE. Perché? Perché ovviamente con tutte le misure di indennità, di aiuto, di sostegno, è aumentata anche la richiesta di queste documentazioni. Allora, la consulta nazionale dei CAF, che già di solito ha sempre necessità di reiterare le sue richieste di adeguamento dei compensi previsti dallo Stato ai CAF stessi per il servizio svolto, ha lanciato già da luglio un allarme e ha scritto al Ministro dell'Economia, al Ministro del Lavoro, al Ministro per i Beni Culturali e al Presidente INPS per sottoporre il problema della mancanza di adeguati finanziamenti per far fronte all'attività appunto dei centri di assistenza fiscale per le dichiarazioni sostitutive uniche, le DSU, che poi sono quelle che servono per avere la certificazione ISEE, poiché questa certificazione ISEE viene sempre più richiesta, ad esempio il bonus vacanze, per parlare di una cosa di cui si parla molto in questi giorni. Ecco che alla data del 30 giugno sono state già presentate all'INPS circa 5.300.000 dichiarazioni sostitutive uniche e quindi l'istituto porta a considerare ancora remunerabili circa un paio di milioni, poco meno di 2 milioni di nuove dichiarazioni sostitutive uniche. Quindi la consulta dei CAF dice non ci stiamo dentro proprio con gli stanziamenti. Vedremo che cosa succederà, perché a volte questa mancanza magari di finanziamenti sufficienti porta anche a qualche blocco nell'attività. Speriamo che non sia così, davvero non è il momento. Deborah. Continuiamo a seguire con attenzione anche la situazione economico-finanziaria delle famiglie, ce ne sono tante che ci scrivono rappresentandoci i loro problemi, noi cerchiamo per quello che è possibile di dare una mano quando i microfoni di 2D Denari si spengono. Oggi apprendiamo un dato che viene rilasciato da Federcasa, che raduna la sua assemblea nazionale. Questa organizzazione ha commissionato uno studio all'Istituto Nomisma, uno studio che si intitola La dimensione del disagio abitativo pre e post emergenza Covid-19, numeri e riflessioni per una politica di settore. Cosa ci racconta questa indagine? Ma questo noi con Mauro lo abbiamo scoperto già da marzo, da quando abbiamo avuto le prime misure di contenimento di lockdown. La pandemia ha determinato un pesante impatto sul reddito e sulle condizioni di vita delle famiglie italiane, tanto che una su quattro ha avuto difficoltà a pagare l'affitto ed oltre il 40% prevede di non riuscire a pagarlo nei prossimi 12 mesi. A soffrire sono state anche le famiglie con un mutuo, sappiamo in quante hanno avuto bisogno di sospendere la rata mensile, quindi il finanziamento in corso. Ad aggravare il quadro generale, ci racconta Federcasa, il fatto che 160.000 famiglie rischiano di diventare inadempienti anche dopo l'emergenza, oltre 300.000 hanno la casa pignorata. Tutto questo naturalmente ci porta anche a raccomandare ai nostri ascoltatori, anche se avete in questo momento la disponibilità finanziaria per farlo, ma abbiamo ancora un quadro incerto, prima di avventurarvi con un finanziamento di lunghissimo termine, pensateci spesso e volentieri, pensateci tanto e soprattutto sottoscrivete un mutuo per una rata che sia totalmente sostenibile, quindi non strozzatevi con una rata insopportabile solo perché coronate il sogno della vostra vita di comprare casa, ma fate i conti con l'oste e non senza l'oste. Mauro, peraltro Federcasa ci ha rilasciato anche un altro dato, aggiorna il dato sul numero dei cittadini che vivono in condizioni di povertà assoluta, sono 1.674.000. Mauro. Allora, io ti volevo chiedere un permesso per giovedì, perché devo seguire un webinar. Devo seguire un webinar molto interessante. Te lo devo scrivere? Sì, volevo chiederti il permesso di essere assente perché Assogestioni organizza questo webinar, il valore della diversità nelle scelte di investimento. Diversità non solo di genere, non tanto di genere, ma proprio anche condizioni economiche, condizioni culturali, situazione familiare e così via. Presenteranno una ricerca proprio Assogestioni Censis sulle differenze nelle scelte di investimento, quindi come la diversità, le diversità influenzano le scelte di investimento. E mi sembra interessante, allora con il tuo permesso puoi controllare se vuoi, lo trovi tutto a eventi.salonedelrisparmio.com, trovi tutta la descrizione di questo webinar. Magari, capisco che tu non potrai seguirlo perché certo dovrai condurre quella mattina Due di Denari da sola. Però, ma porta del materiale a casa però, che così lo raccontiamo nei giorni successivi. Va bene, lo farò senz'altro molto volentieri. Andiamo a sentire che cosa ci hanno lasciato detto nel Dillo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Salve, sono Rita, sono una nonna. Volevo comprare alcuni di questi BPT Futura per mio nipotino. Pensate sia un buon investimento? E in ogni caso io ho un conto corrente online. Quindi dove posso comprarli? E ha un costo il comprarli? Grazie. Eccoci qua. Allora, intanto ieri a questa domanda hanno prontamente risposto diverse migliaia di risparmiatori italiani, perché nella prima giornata di collocamento per il BTP Futura è stata superata la soglia dei 2 miliardi di euro di sottoscrizioni, quindi mi pare che dal Ministero dell'Economia sia stata espressa una discreta soddisfazione, considerato che appunto in questo momento il titolo può essere sottoscritto, non in questo momento, che questo titolo può essere sottoscritto solo dal pubblico dei piccoli risparmiatori, per cui ieri sono stati sottoscritti 65.000 contratti, ecco il dato corretto. Come avranno fatto gli interessati, Mauro? Ma così probabilmente almeno lo spieghiamo anche all'ascoltatrice. Si sono recati, esatto, anche in banca, oppure se la signora dispone, avendo un home banking, anche di un dossier titoli e quindi può procedere direttamente all'acquisto, può anche farlo da sola, ma in banca sono lì per aiutare. Vogliamo precisare una cosa che forse ieri poi nel riepilogo non abbiamo ricordato, anzi due cose. La prima, c'è tempo fino a venerdì, ma se le richieste fossero molte si chiude già domani, cioè si chiude già mercoledì con l'acquisto di questo BTP Futura. La seconda cosa, in questa fase non ci sono commissioni all'acquisto, è un'altra precisazione che ha dato il Ministero dell'Economia proprio nel descrivere le caratteristiche di questo BTP Futura. Speriamo con questo di avere soddisfatto la curiosità o naturalmente sì. Precisiamo, la signora chiede se le conviene o non le conviene, questa è una risposta che può dare davvero solo lei, con l'aiuto se vuole dei suoi consulenti, del suo consulente al quale si affida abitualmente. Noi non consigliamo mai scelte di investimento, descriviamo i prodotti, lo stiamo facendo anche per questo BTP Futura. Deborah. Ah, guarda, c'è una notizia ghiotta che vorrei approfondire in questa, ancora in questa prima parte del nostro programma. Ti telefono quasi. Ma sì, dai, chiamami. piange il telefono perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. In realtà abbiamo chiamato il dottor Enrico Maria Cotugno, vice direttore della Direzione Tutela Consumatori dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, perché insomma venerdì scorso è stata diffusa una notizia che ci ha acchiappato, un'altra indagine della Procura di Milano che starebbe cercando di fare luce sulla situazione nella quale si sono trovati migliaia di utenti delle primarie compagnie telefoniche italiane che, ancora una volta, perché non è una pratica sconosciuta, ahimè, ai nostri amici, a noi tutti, si sono visti addebitare importi per servizi di pagamento per cui non era mai stata chiesta l'attivazione. Sono state particolarmente sfortunate in questo giro, Mauro, racconta tu perché? Perché si sono imbattute in un cliente di primo ordine. Perché esatto. tra i clienti che sono risultati incisi da questa pratica scorretta c'era proprio Francesco Greco, il procuratore della Repubblica di Milano. Alle volte vedi la sfortuna, cosa ne dice? Potevano anche imbattersi magari nel dottor Cotugno medesimo, che appunto così disponeva direttamente pure lui una qualche indagine. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari, dottor Cotugno. Buongiorno, bentrovati, buongiorno a tutti. Allora, qui la vicenda è questa: uno attiva un abbonamento normalmente, eccetera, poi si vede addebitare importi per app, giochi, servizi a valore aggiunto si chiamano, di cui non ha mai chiesto l'attivazione. Allora, questa è una pratica che mi pare non sia nata proprio ieri, ma ogni tanto sotterraneamente ritorna, o mi sbaglio? Guardi, se vogliamo capire questo fenomeno mi deve consentire una brevissima premessa, perché certo, in realtà è ancora più, come dire, perniciosa di come lei la sta immaginando. In realtà le SIM non si usano solo nei cellulari per chiamate o per usare WhatsApp, eccetera. Le SIM si usano anche per far comunicare le macchine. Si chiamano SIM machine to machine. Per intenderci, nell'antifurto di casa, nel centralino, c'è una SIM che consente al centralino, in caso di allarme, di mandare appunto il segnale alle forze dell'ordine e al mio cellulare per avvertirmi che qualcuno sta entrando in casa mia. Certo. E abbiamo. E quindi che cosa c'entra con l'inchiesta? Sì, con l'inchiesta avviata dalla Procura di Milano, dottor Cotugno. Forse abbiamo perso? Abbiamo perduto il contatto. Vedi, alle volte, ecco, a parlare male della telefonia, poi che cosa ci succede? Cosa mi sospettisce un po', infatti. Allora, possiamo intanto anticipare ai nostri ascoltatori che anche questa tecnica utilizzata dalle compagnie per appunto un po' arrotondare, come dire, sì, non mi veniva un termine migliore, si chiama zero click, perché in realtà molto spesso tu sottoscrivi questi abbonamenti che poi ti ritrovi naturalmente a dover pagare perché clicchi tuo malgrado su certi banner, proposte pubblicitarie, e in questo caso invece tornato, non c'era neanche tornato, ecco. Dove è stato censurato, è stato da una censurato delle compagnie, telefoniche, non lo volevo dire. No, allora tornando a noi, perché questa premessa? Perché in questo caso, però ripeto, io non parlo dell'indagine della procura per ovvi motivi, io parlo dell'indagine che abbiamo avviato noi come Agicom subito dopo l'estate, proprio perché ci siamo accorti, quindi a parte la fortuna o la sfortuna, l'autorità è sempre presente e vigila sempre, abbiamo iniziato a ricevere delle strane segnalazioni di utenti che dicevano: mi hanno addebitato servizio sovrappeso sulla SIM che io ho dentro l'allarme, quindi su una SIM che non poteva cliccare sul banner e cliccare due volte per acconsentire all'addebito. E lì allora è scattato subito il campanello di allarme, per cui abbiamo fatto delle ispezioni subito alla fine dell'estate, dopo l'estate, perché d'estate gli operatori erano chiusi, e abbiamo verificato che effettivamente c'è stata una vera e propria truffa informatica, cioè dei soggetti hanno fatto in modo, ora non posso entrare nei dettagli ovviamente, di simulare l'acquisto da parte di queste SIM, che in realtà erano SIM che, ripeto, non potevano averlo fatto perché erano dentro delle centraline, quindi non avevano alcun accesso a internet. è stata una vera e propria, insomma, intrusione informatica, sulla quale ovviamente sta indagando la Procura della Repubblica di Milano. Noi siamo ormai alla fine della nostra indagine, perché ieri abbiamo ricevuto l'ultima risposta da parte dell'ultimo operatore, e quindi adesso valuteremo gli esiti della nostra istruttoria e andremo avanti per la nostra strada. Ecco, quello che sicuramente questa vicenda ci ha insegnato è che dobbiamo fare in modo che non succeda mai più. Quindi è ovvio, si è trattato di un'intrusione informatica, si è trattato di un evento eccezionale, doloso, ma è il nostro compito fare in modo che le regole siano tali da evitare del tutto anche questo minimo rischio. E l'altra cosa sulla quale stiamo appunto valutando il comportamento degli operatori è il rimborso effettivo e completo di tutte le migliaia, sono davvero centinaia di migliaia di utenti impattati da questo fenomeno. E sarebbe stata infatti la nostra domanda. Questo del rimborso sarebbe stata la nostra domanda, perché ad esempio Francesco Greco, il procuratore di Milano, ha detto io pagavo 20 euro a bimestre per acquisto di giochi con addebito a società offshore, acquisto che lui non aveva mai eseguito. Quindi la domanda era, ma se c'è speranza di essere rimborsati? Uno chiama la compagnia e dice io non ho mai attivato queste cose, oppure poi ci sono contestazioni, bisogna dimostrare qualcosa, che cosa state vedendo voi, dottor Cotugno? Allora, perfetto, ringrazio per questa domanda, perché è un modo di dare un suggerimento agli nostri utenti. In realtà gli operatori ci hanno dato conto già di milioni di rimborsi, cioè centinaia di migliaia di rimborsi già effettuati. Ovviamente noi stiamo verificando che i numeri siano effettivi e che non ci siano utenti rimasti fuori. Comunque, a scanso di equivoci, il suggerimento è a tutti gli utenti, soprattutto a quelli che hanno SIM dentro allarmi, dentro apparecchi di domotica, eccetera, di verificare gli estratti conto delle carte di credito, delle banche, insomma, dei conti sui quali sono appoggiate quelle SIM, per verificare se nel periodo da aprile dell'anno scorso fino a settembre ci siano stati degli addebiti strani. Perché il sospetto è che questa operazione sia stata fatta proprio su queste SIM, perché sono SIM che uno non segue, perché non ce l'ha nel cellulare, quindi non legge i messaggi di attivazione dei servizi o i messaggi di addebito, e quindi ecco perché è stata un'operazione molto più perniciosa. Quindi reclamare, se riuscite a verificare che ci siano stati questi addebiti e non ci siano stati rimborsi, e ovviamente il consiglio solito è in ultima analisi ricorrere al Consiglio Web, cioè la nostra piattaforma che su internet consente di avviare una procedura di conciliazione prima e di decisione poi della controversia in maniera facile e gratuita. Grazie a Enrico Maria Cotugno, che è vice direttore della Direzione Tutela Consumatori all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Allora andiamo a controllare specialmente questi SMS, queste SIM che fanno parlare le macchine tra di loro, ma di solito non si abbonano ai giochi. Cara Debora, le borse. Sono pronta. Bravi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di Denari. Go to a cash machine to get a ticket home. A message on the screen says don't make that job broke. Carissimi Due di Denari, basta risolverlo semplicemente questo discorso qua delle SIM. Basta cambiare le regole. Se io voglio un servizio, te lo chiedo, punto. Se no, tu non puoi né addebitarmi né offrirmi servizi, punto. Stop. Semplice. Quindi, qualsiasi servizio venga addebitato o proposto senza che tu l'hai chiesto, è sbagliato e quindi non può essere addebitato. Semplice, basta cambiare le regole. Andrà tutto bene per i giganti del web. Possiamo vedere Amazon, che in questa quarantena appunto è cresciuta esponenzialmente nei ricavi. E invece non andrà tutto bene per i poveri commercianti, che saranno costretti o a chiudere e abbassare la serranda o a installare il POS per fare l'ennesimo regalo agli istituti finanziari. È sempre un tema divisivo, cara Deborah. Sempre, questo del POS è sempre un tema divisivo. Sì. Le commissioni alte, sono basse. È un regalo alle banche. Sempre non è un regalo alle banche, eccetera, eccetera. Sul primo. No, volevo solo dire. Prego, Deborah, dimmi. Sì, esatto, che io sono d'accordo. Posso dire, ma se mi serve una cosa, io te la chiedo e me la fai pagare. Ma perché me la devi imporre o proporre in maniera un po' subdola? Non chiara, cioè appioppata lì in maniera invisibile, poi incappi in un procuratore della Repubblica, ti va pure male. Però dovresti guardare chi stai truffando, perché forse non hai preso, perché è una, l'indagine è per truffa, non per altro. Esatto, non è che usiamo noi sta parola, ma è proprio l'indagine che indaga esattamente per truffa. Allora andiamo sul fisico, contanti, sì. Sul contante, sì. Cash, è in collegamento ovviamente, non so, l'esperto massimo mondiale, tutti quelli che intervengono qui a Due Denari sono esperti per lo più di valore mondiale, ma Nicola Forte è davvero ormai una voce abituale per questo tema, esperto del Sole 24 Ore, consulente tributario, amico di Due di Denari, e ci consiglia, ci aggiorna sempre su questo andirivieni delle soglie del contante, delle sanzioni e così via. Bentornato grazie. Nicola. Grazie Mauro, grazie Deborah. Allora, ci sono due cose che vorremmo dire. L'una è che è cambiato il limite, cioè è sceso dal primo di luglio, 1.999,99 euro, soglia per l'utilizzo del contante nelle transazioni tra privati. Non ho detto 2.000 perché altrimenti mi avresti corretto. La seconda cosa è che c'è un credito d'imposta possibile da richiedere da parte dell'esercente che attiva il POS e quindi sostiene delle spese, delle commissioni. Da dove vuoi partire, Nicola? Scegli tu, Mauro, nessun problema, è giusto 1.999,99 euro, correttissimo. Sono stato attento nelle lezioni precedenti, ma se io invece pago con 2.000 euro, che mi succede? Mi multano istantaneamente? Allora, ovviamente la violazione deve essere constatata, allora dipende in quale contesto tu commetti la violazione. Ti faccio un esempio, se io materialmente do a mio figlio 2.000 euro, no? E materialmente non c'è un soggetto che riesca a intercettare l'operazione, perché è un'operazione che rimane in casa tra me e mio figlio. Poi quando mio figlio spende il denaro contante, non spende 2.000 o 2.100, quello che gli ho materialmente dato, ma probabilmente spende in piccole tranche. Qui la violazione è commessa, ma probabilmente non se ne accorge nessuno. Viceversa, ci sono dei soggetti, cioè i professionisti, che devono svolgere un'attività di controllo, e se intercettano una violazione nell'attività che comunemente svolgono, perché per esempio assistono sotto il profilo fiscale la persona, per esempio dalla contabilità riscontrano un versamento in contanti, hanno obbligo di comunicare l'infrazione, e allora lì la possibilità che la violazione venga fuori, se il professionista correttamente segnala l'infrazione, è certa. Ma ad esempio pago il dentista, tanto per dire una cosa su cui si potrebbe superare facilmente questa soglia. Esatto. Pago usando dei contanti, è obbligato a fermarmi in quel caso lì, a dire no, lei mi deve pagare in modo tracciabile, ma va bene anche un assegno per dire, però non il contante. Non il contante, però dobbiamo anche considerare una cosa, che è vero che con il dentista si superano facilmente queste soglie, ma ricordiamo che soprattutto in situazioni di crisi, Covid, ma anche prima, molto spesso, io lo vedo, è abitudine comune fare un piano di rateazione anche col dentista, non è un'eresia o non è una cosa così stratosferica. Allora, a questo punto oggi devo considerare che è anche in un'abitudine consolidata, nei comportamenti di prassi, effettuare un pagamento rateale. Allora se io al dentista do 1.500 in contatti, poi a 60 giorni altri 1.500 e altri 60 giorni 1.500, ecco, non ho frazionato per violare quella soglia, deludere. Ma Esatto, per eludere. La norma lo prevede, è vietato frazionare per superare quel limite, ma se il frazionamento avviene sulla base di comportamenti consolidati per situazioni oggettive di difficoltà, è assolutamente ammissibile. Devo anche considerare Prego. Vai, Deborah. C'è questa impasse tra voi due, Deborah. Esatto. Faccio d'armi. Volevo dire, dobbiamo anche considerare che nel tempo, soprattutto in situazioni di crisi, certe abitudini, certi comportamenti cambiano. Magari 20 anni fa io non frazionavo il pagamento dal dentista. Oggi è una situazione diversa, devo tenerne conto. Volevo ricordare la mia curiosità era sui 60 giorni, li ha citati casualmente Nicola? Casualmente, perché molto spesso, questo magari più nell'ambito delle transazioni commerciali piuttosto che col dentista, no? Il pagamento di una fattura per esempio è 30, 60, 90 giorni data fattura, in realtà è sufficiente un piano di rateazione. Per esempio, un altro esempio, vado oggi in tempi di Covid molto difficile, vado da un'agenzia di viaggio, acquisto un pacchetto per un viaggio all'estero, effettuo un pagamento il pacchetto è di 3.000 euro, corrisponde un acconto di 1.500 euro e 1.500 prima della partenza. Anche questo assolutamente tollerato. Quindi non è automatico che per un importo superiore ai 1.999,99 euro si venga, come dire, segnalati. Le operazioni vanno valutate nel merito. Sì, vi fermo un attimo. Deve essere sempre sotto, però attenzione, io faccio riferimento alla singola rata. La singola rata deve essere sotto. Al di sotto del 1.999,99. Ma il totale può essere anche per un importo superiore, il totale dei pagamenti che avvengono in più momenti. Vi fermo un istante, fermo entrambi perché è il momento del traffico. Se la sportività che cerchi in un'auto non è solo parcheggiare sul marciapiede, se la tranquillità del divano è l'ultima cosa a cui pensi quando sali a bordo, se cerchi sempre qualcosa che non si confonda con gli altri, per te è arrivata nuova Seat Leon, sportiva, connessa, ibrida. Oggi con un nuovo design e l'esclusivo Seat Light Concept. Fari full LED, illuminazione interna a LED intelligente e personalizzabile e LED posteriore cost-to-cost. Nuova Seat Leon, disegnata dalla luce. Tua da 19.500 euro. Scoprila su seatitalia.it. Di denari. Allora, cara Deborah, come d'abitudine quando tocchiamo questo argomento i casi sono tanti, perché appunto i pagamenti, le transazioni, le soglie delle transazioni, se ci fossero turisti ad esempio la soglia è tutt'altra, perché allora il turista straniero può utilizzare come soglia per l'utilizzo del contante quella di 15.000 euro, il turista non residente che fa acquisti presso commercianti al minuto o agenzie di viaggio, però riguarda solo i turisti non residenti. Fa una domanda invece un ascoltatore, non so se già ce l'abbiamo in collegamento, il Francesco non ancora, allora attendiamo un attimo che il centralino lo ritrovi. Io volevo una divagazione, si fa per dire divagazione, sul credito d'imposta che è stato accordato agli esercenti che si dotano di POS, di point of sale, quindi per avere pagamenti elettronici. Come funziona questo credito d'imposta, Nicola Forte? Sì, funziona innanzitutto che riguarda i soggetti di minori dimensioni, cioè i cui ricavi nell'anno precedente o compensi non hanno superato i 400.000 euro, e poi riguarda le transazioni effettuate solo nei confronti di soggetti privati con carta di credito, debito, prepagata, altri strumenti elettronici. I cosiddetti convenzionatori o gestori della carta o coloro che gestiscono questi pagamenti elettronici devono mensilmente fare una comunicazione sia all'Agenzia delle Entrate per esigenze di controllo, sia al commerciante, al professionista, dove trasmettono una lista di tutti i pagamenti effettuati e ricevuti da parte di soggetti privati, in modo che per quanto riguarda il costo delle commissioni, si può calcolare il 30% e dal mese successivo rispetto a quello in cui la spesa è stata sostenuta, il commerciante, il professionista può utilizzare unicamente in compensazione questo credito di imposta. Allora, il calcolo quindi è abbastanza lineare, l'utilizzo pure dal mese successivo. E, allora, abbiamo recuperato intanto Francesco, Deborah, vogliamo ascoltarlo? Sì, ottimo. Lo ascoltiamo volentieri e poi volevo riprendere, se mi consentite, l'esempio che ha fatto prima Nicola sulla questione della transazione in famiglia. Nel senso, lui dice, io do 2.000 euro a mio figlio e poi è chiaro che lui li utilizzerà come meglio crede, non tutti. Ma cioè, mi colpisce il fatto che anche nell'ambito di un nucleo familiare per una operazione economica magari destinata ad una organizzazione di famiglia che ha qualunque finalità, si debba tenere sotto osservazione anche questi limiti sull'utilizzo del contante, nel senso che non abbiamo una transazione commerciale, non abbiamo un acquisto diretto di un bene, un pagamento appunto per un servizio professionale, quindi mi colpiva, mi piacerebbe appunto che fossero precisati anche i contorni di queste abitudini di famiglia, se effettivamente dobbiamo stare anche particolarmente attenti a gestire del denaro tra madri, figli, e padri, e zii e nonni eccetera. E quindi magari ci ritorniamo dopo la domanda di Francesco da Cremona. Francesco, buongiorno. Francesco? Buongiorno, buongiorno signori, buongiorno. Ascolti, io volevo chiedere questo. Io posso andare in banca e chiedere più di 2.000 euro in contanti? Cioè prelevare più di 2.000 euro che poi io userò a 100 per volta, insomma quello che è. Come un po' il caso appunto, magari per darli al figlio che poi li spenderà a 100 per volta. Nicola Forte. Allora, comportamento assolutamente corretto, ma con delle precisazioni. Pensate che sono state necessarie ben 3 circolari dell'ABI, ma questo sin da quando c'è stato il famoso decreto Monti che abbassò all'epoca 1.000 euro, per dire alle banche che o il versamento in contanti oltre la soglia o il prelevamento in contanti oltre la soglia non configura mai una violazione, perché, e qua mi collego alla domanda di Alan, alla curiosità di Deborah prima, la violazione si commette quando trasferisco il denaro contanti in favore di un soggetto diverso. Il conto corrente è intestato a me, a parte che è tracciato il denaro che c'è sul conto corrente, ma io sto facendo un prelievo di ciò che è mio. L'ABI lo ha chiaramente detto. Il problema nei rapporti con le banche di altra natura. Faccio un esempio. Mi presento allo sportello e verso, esagero, 50.000 euro di contanti. L'operazione è lecita e corretta, non violo il limite, ma qui nasce un altro problema, c'è un'altra norma, cioè la banca può sospettare che quel denaro contante, proprio perché è chiaramente un importo molto elevato, l'abbia prodotto attraverso un'attività di riciclaggio, e allora farà una comunicazione di operazione sospetta, ma l'operazione in sé è assolutamente lecita e corretta. Cioè non c'entra nulla la soglia in questo caso. Assolutamente no. Ecco, poi a questo punto, Nicola, sempre ci chiedono, non so, ad esempio i negozianti che hanno magari molto contante alla fine della giornata, hanno sempre la perplessità, ma posso andare in banca? Sì, se fate, avevo capito in altre occasioni in cui ci siamo occupati del tema, se uno fa, che ne so, il panettiere e quindi ha tutti i piccoli importi che però alla fine della giornata possono diventare grossi importi, non è da segnalare il fatto che lui vada lì con i contanti a versarli sul suo conto, credo di capire. È assolutamente corretto, può versare, non è una violazione, è fisiologico. Poi ho un'altra disposizione, ma che non c'entra niente, che è altra natura, che se si supera una certa soglia di versamento mensile ci può eventualmente essere una comunicazione, ma non a fronte di una violazione, perché in generale c'è un retropensiero che quando si movimenta troppo denaro si sospetta, ma un panettiere, un commerciante che fisiologicamente fanno a fine giornata versamenti di denaro contante, assolutamente non diamo la caccia alle streghe, tranquillizziamo tutti, non dobbiamo crearci più ansie rispetto a quelle che sono i rischi reali. Ma nel caso in cui, come dire, il panettiere in questione abbia la sfortuna di incappare in un'attività di accertamento, che cosa vanno a verificare le forze dell'ordine? Che magari l'ammontare dei depositi quotidiani che arrivano chiaramente in banca con il contante siano più o meno coerenti con gli importi degli scontrini registrati nel corso della giornata? Sì, oggi. Allora, innanzitutto qua dobbiamo capire se è un controllo fiscale, se ai fini dell'antiriciclaggio, perché ai fini dell'antiriciclaggio il controllo è della Guardia di Finanza, mentre l'Agenzia delle Entrate interviene anche per problemi di tipo fiscale. Però oggi, con l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, voglio dire, e con la memorizzazione, è abbastanza semplice fare operazioni di riscontro. Certo, se io poi non ho nella memorizzazione importi coerenti rispetto alle somme che quotidianamente verso, beh, è ovvio che qui c'è un problema di fondo, ma direi che posso stare relativamente tranquillo. Sì, diciamo che forse Nicola Forti ha detto con molta eleganza: se io mi dimentico di utilizzare il registratore di cassa, ecco, cosa che magari uno c'ha un po' l'amnesia in quei momenti lì. Sì. Sono cose che possono capitare, cara Debora, però speriamo di avere chiarito, riepilogato com'è l'utilizzo della nuova soglia di 1.999,99 euro. Grazie a Nicola Forti, consulente tributario esperto per il Sole 24 Ore. Debora, domani di che parliamo? Domani c'è il lavoro, caro mio, ma con tutti questi bonus per rifare belle le nostre case con un incentivo fiscale importante, a quali professioni?